Dal fiore di loto a 12 petali si hanno percezioni del tutto diverse. La natura di queste percezioni si può caratterizzare ad un dipresso paragonandole a calore e a freddo dell'anima. Un chiaroveggente dotato di questo senso sente emanare, anche dalle figure che percepisce per mezzo del fiore di loto a 16 petali, del calore animico o del freddo animico. Immaginiamo ora che un chiaroveggente abbia sviluppato il solo fiore di loto a 16 petali e non quello di 12. In questo caso, di un pensiero benevolo, vedrebbe soltanto la figura sopra descritta. Un altro, che abbia sviluppato ambo i sensi, osserva pure l'emanazione di tale pensiero, che appunto si può solo indicare come calore dell'anima. Occorre però fare notare che nella disciplina occulta un senso non viene mai sviluppato senza l'altro, sicché l'esempio citato serve soltanto per una maggiore chiarezza. Con la formazione del fiore di loto a 12 petali si sviluppa nel chiaroveggente anche una profonda comprensione dei processi della natura. Tutto ciò che è in via di crescere, di svilupparsi, emana calore animico. Tutto ciò che appassisce, deperisce e muore si presenta col carattere di freddo animico. Lo sviluppo di questo senso può essere favorito nel seguente modo. Occorre per primo che il discepolo regoli il corso dei propri pensieri, il cosiddetto controllo dei pensieri. Come il fiore di loto a 16 petali viene sviluppato con pensieri veri, significativi, così quello a 12 petali con l'interiore padronanza del corso dei pensieri. I pensieri svagati, che non si susseguono in modo sensato e logico, ma che sono associati per puro caso, guastano la forma di questo fiore di loto. Quanto più un pensiero segue l'altro, quanto più tutto ciò che non è logico viene evitato, tanto più quest'organo sensorio consegue la sua forma adeguata. Quando il discepolo ascolta pensieri illogici, deve mentalmente subito pensare quelli giusti. Per favorire la propria evoluzione, non deve, con poco spirito di amore, evitare la compagnia di persone poco logiche, né deve sentirsi spinto a correggere subito tutto ciò che vi è di non logico attorno a lui. Deve piuttosto riordinare interiormente, con completa calma, i pensieri che lo assalgono dall'esterno e dar loro una direzione logica ed assennata. Nei propri pensieri, egli si sforza di conservare ovunque questa direzione. La seconda qualità è quella di essere nelle proprie azioni altrettanto conseguente. Ogni incostanza e disarmonia nell'agire conduce a rovina il fiore di loto di cui ora parliamo. Il discepolo dell'occultismo, dopo ogni sua azione, deve regolare quella seguente in modo che risulti in modo logico dalla prima. Chi agisce oggi in senso contrario a ieri non svilupperà mai il senso caratterizzato. La terza qualità è l'educazione alla perseveranza. Il discepolo dell'occultismo non lascia mai che alcuna influenza lo devi dallo scopo che si è imposto, finché continua a ritenerlo giusto. Gli ostacoli sono per lui una sollecitazione a superarli, mai un impedimento. La quarta qualità è l'indulgenza o tolleranza verso gli uomini, gli altri esseri e anche di fronte ai fatti. Il discepolo reprime ogni superflua critica di ciò che è imperfetto, brutto o cattivo e cerca piuttosto di comprendere tutto ciò che gli si avvicina. Come il sole non nega la sua luce al brutto e al male, così egli non nega il suo interessamento comprensivo. Se il discepolo si trova di fronte a qualche contrarietà, non si perde in critiche sfavorevoli, ma si adatta alle circostanze e cerca, per quanto la sua forza glielo permetta, di volgere la cosa in bene. Non considera le altrui opinioni soltanto dal proprio punto di vista, ma cerca di mettersi nella condizione dell'altro. La quinta qualità è l'obiettività di fronte ai fenomeni della vita. A questo riguardo si parla anche di fede o di fiducia. Il discepolo muove incontro a tutti, ad ogni essere, con tale fiducia. Se ne riempie in ogni sua azione. Quando gli viene comunicato qualcosa, non dice mai «non lo credo perché è contrario all'opinione che ho avuto finora». È piuttosto sempre pronto a rivedere la sua opinione e la sua veduta e a correggerle di fronte ad altre opinioni. Si mantiene sempre ricettivo per tutto ciò che gli si avvicina e ha fiducia nell'efficacia di ciò che intraprende. Scaccia dal suo essere la timidezza e la tendenza al dubbio. Se nutre qualche proposito, ha anche la fede nella forza della sua idea. 100 insuccessi non valgono a togliergli questa fede. È la fede capace di muovere le montagne.